Steve a mis au point différents réservoirs. La finestra sul cortile di Riccardo Chiaberge. Bentornati alla finestra sul cortile. La grande crisi, a quanto pare, sta davvero per finire. Cominciamo a vedere una luce in fondo al tunnel. Ma abbiamo ancora bisogno di consolazioni e forse ne avremo sempre bisogno. E quali migliori consolazioni della poesia e della grande musica? E allora parliamo di musica e di poesia. I libri di poesia non si vendono come i libri di narrativa, anzi si vendono pochissimo, tirano pochissime copie, sono una editoria di nicchia. Ma i festival di poesia hanno grande successo di pubblico e molti cantautori pubblicano i testi delle loro canzoni in forma di libro. Forse la poesia è meglio ascoltarla che leggerla? E la musica classica? Qualcuno lancia un grido di allarme che a forza di CD e di hi-fi, di sale concerto ad alta tecnologia, rischia di diventare così perfetta da perdere il suo fascino. Ma intanto sentiamo di quali altri argomenti parleremo in questa puntata della Finestra sul Cortile. Germania. La musica classica sta diventando sempre più perfetta, ma perde il suo fascino. Lo sostiene il direttore d'orchestra Ingo Metzbacher. America. Umanizzazione degli animali domestici. Una mania allarmante. Hollywood. Una classifica rivela le città e i paesi preferiti dai registi e dai produttori per girare i loro film. Argentina. Il futuro della poesia è sempre più legato alla musica. Chicago, gli uomini sono avari? Colpa del testosterone. Germania, da grande voglio fare il becchino. Centinaia di giovani a scuola per imparare uno dei mestieri più antichi del mondo. La musica classica sta vivendo un momento di grande popolarità. Tutti vanno alle sale concerto, ai teatri d'opera, le sale sono sempre piene, ma secondo alcuni proprio questo momento di grande successo anche dei CD musicali, dei grandi autori del passato, in realtà la musica classica si sta svuotando di significato, sta perdendo l'aura, il fascino che l'ha sempre contraddistinta. E questo è il grido d'allarme che lancia un grande direttore d'orchestra, Ingo Metzmacher, che è stato a lungo direttore dell'Orchestra Sinfonica di Berlino e che ora ha scritto un libro, Vorhang auf, Operen decken und erleben, adesso ve lo dico in tedesco, ma la traduzione è su il sipario, scoprire e vivere l'opera, su cui ha dato un'intervista al quotidiano tedesco Frankfurter Rundschau. E sostiene Metzmacher che la musica classica sta perdendo di contenuto e sta dissolvendo il suo alto messaggio. E perché? Perché c'è un impoverimento culturale, c'è un'industria concertistica sempre più avida di musica brillante, pulita, perfetta, suonata in maniera virtuosa. Ma cercando una simile perfezione anche con mezzi tecnologici sofisticatissimi, con sale da concerto con un'acustica perfetta, il rischio è quello di perdere l'essenza stessa della musica, proprio quella sua imperfetta ma fascinosissima sensualità. Ma intanto diamo il benvenuto al maestro Accardo, che ringraziamo di essere qui con noi. Ben trovati. Salvatore Accardo è uno dei più grandi violinisti viventi, noi lo conosciamo e lo apprezziamo da tanti anni, il primo violino lo ha cominciato a suonare che aveva solo 3 anni, vero? Sì, esattamente, sì. È stato un regalo di mio padre e io ho cominciato a suonarlo così,

E la moquette, noi sappiamo che ammazza il suono. Eh sì, infatti, per esempio, alla Scala l'hanno sostituita col parquet. Assolutamente. Insomma, il suono bello è, te lo dà il legno, perché il legno fa parte di una cassa armonica, no? Una sala fatta di legno è come se fosse una cassa armonica del proprio strumento, del violino. Il violino è di legno e la cassa armonica di legno fa in modo che il violino suoni come vuole, come deve suonare. Bene, noi ringraziamo il maestro Accardo, grazie, auguri per il suo lavoro. Grazie a lei, grazie, a presto. E dall'orecchio musicale degli umani passiamo all'occhio e all'olfatto del migliore amico dell'uomo. Inside of a dog, what dogs see, smell and know, quello che i cani vedono, odorano e sanno, è un libro di Alexandra Horowitz uscito recentemente in America da Scribner e viene recensito sul Washington Post. Da qui emerge che gli americani spenderanno quest'anno ben 45 miliardi di dollari per antidepressivi per i loro cani, e poi il 56% di proprietari di cani compra regali di Natale per i suoi animali, magari anche qualche CD di musica classica. Certo, vedendo certi proprietari di cani per le strade, come si comportano, come sono imbarazzati e goffi nel trattare i propri animali, forse proprio perché li vedono come dei figli, invece dovrebbero imparare a trattarli bene come cani. E andiamo a Hollywood. Sul giornale online Variety.com c'è una curiosa classifica che è il risultato di un'indagine svolta tra i registi e i produttori cinematografici americani su quali sono le città e i paesi preferiti per ambientare e girare un film. E nella classifica troviamo al primo posto, classifica internazionale, al primo posto il Marocco, seguito dalla Francia, in particolare Parigi, la Provenza e la regione della Dordogna, ma anche Praga, al quarto posto la Spagna, al quinto l'Inghilterra con Londra, Edimburgo. E tra le località americane preferite c'è la California, al primo posto, sorprendentemente, supera New York. Al terzo posto il Nuovo Messico, poi segue Chicago e la Louisiana. Forse se facessero la stessa indagine tra i registi italiani, la maggior parte di loro sarebbe incerta in questo momento tra la Costa Smeralda e via Gradoli. Adesso ci sono le notizie sul traffico, ci risentiamo tra poco. La finestra sul cortile. Una buona notizia per gli amanti della poesia ci arriva dall'Argentina, dalle colonne del quotidiano La Nación, un articolo di Jorge Fernández Díaz, che è per l'appunto il responsabile della sezione culturale del quotidiano argentino, intitolato La poesia resiste. E parte Díaz da una indagine condotta dal quotidiano spagnolo El País, da cui risulta che soltanto l'1,9% degli acquirenti di libri nelle librerie spagnole legge poesia, e che la media tiratura di un libro di poesia è intorno alle 2000 copie. Quindi insomma niente in confronto ai bestseller, ma anche insomma a un normale libro di narrativa o di saggistica. Quindi insomma la poesia è un prodotto di nicchia, scrive Díaz, praticamente sopravvive come una specie di setta nelle catacombe del mercato, oppure come una specie di patto identitario tra i poeti e i lettori aficionados. Però, scrive ancora Fernández Díaz, ha ricevuto la poesia, che sembrava così destinata quasi all'estinzione, ha ricevuto una specie di scialuppa di salvataggio dalla canzone contemporanea, perché c'è

uno spiritualista per sua scelta, o anzi per natura, e bisognerebbe ascoltarli molto di più. Ecco, ma torniamo a parlare insomma della diffusione della poesia nella società di oggi. Insomma, il fatto che in libreria i libri di poesia vendano così poco sembra contrastare con un altro dato ugualmente appariscente, cioè le folle che accorrono per le recite di Benigni o di Vittorio Sermonti che recita Dante, no? E che riempiono le piazze, le chiese. Insomma, e come mai? Allora vuol dire che la poesia è meglio ascoltarla che leggerla? No, io credo di no. Io penso che lì c'è innanzitutto il grande classico, Dante, certo. Manzoni, e quindi il classico è già fa numero a sé. Poi c'è il grande personaggio, Benigni è un personaggio, è naturale, ma la pletora, l'infinito numero di poeti che sono scarsamente conosciuti in Italia non hanno questo pubblico e non possono avere nemmeno questa attenzione o questa pubblicità. È molto difficile che arrivino al, non dico al grande, ma al medio pubblico. E poi è naturale che noi viviamo in una società in cui ci sono c'è una normalità, una medietà di ascolto, lo si vede dai bestseller, nei libri, certo. A cinema e a teatro, una normalità d'ascolto che, scusi se posso permettermi di dire, abbastanza mediocre come qualità. Quando vai sulla poesia, naturalmente tocchi il 10-15% della popolazione. C'è un'elite, insomma. È un'elite, e non un'elite chiaramente di potere o di soldi, un'elite intellettuale. Bene, noi ringraziamo Vecchioni, a presto. Grazie a voi, grazie di tutto, arrivederci, ciao, ciao. Più allupati, più taccagni, sembra questo il risultato di una indagine di cui si parla sull'ultimo numero del settimanale inglese New Scientist, ed è un'indagine che è stata presentata all'annuale congresso dei neuroscienziati a Chicago e cerca di mettere in correlazione i livelli di testosterone, l'ormone maschile che presiede al desiderio sessuale, con le attitudini nei confronti del denaro. Una precedente inchiesta svolta tra i traders della finanziari di Londra aveva scoperto che alti livelli di testosterone al mattino producevano maggiori guadagni sui mercati finanziari. Ma qui hanno provato a mettere a confronto degli studenti con un gioco di ripartizione virtuale, ovviamente, di denaro, e hanno scoperto che ad un maggiore livello di testosterone era associata invece una maggiore avarizia, cioè si tendeva ad essere meno generosi verso gli altri. Quindi vorremmo rivolgere un appello, anzi un avvertimento alle nostre ascoltatrici: se un corteggiatore vi invita a cena e vi sembra troppo insistente, magari di mestiere fa il venditore, alla fine potrebbe anche farvi pagare il conto. E andiamo in Germania per una notizia che è molto in carattere con questi giorni, in particolare con il giorno dei morti. È uno dei mestieri più antichi del mondo e per farlo occorrono capacità artigianali, nervi saldi e un po' di fegato. Parliamo dell'impresario di pompe funebri, un mestiere che non risente di alcuna crisi se non quella della concorrenza che si fa sempre più agguerrita. Nella cittadina tedesca di Münnerstadt esiste addirittura una scuola nazionale per aspiranti becchini. Dalla cura e preparazione della salma all'ultima posa della bara nell'oculo, l'istituzione insegna ai 500 studenti come diventare perfetti accompagnatori del caro estinto nell'ultimo viaggio. Ma nell'istituzione, che vanta una falegnameria privata, una cappella di prove, un camposanto per le esercitazioni, tutti sono concordi: il becchino perfetto non deve solo occuparsi professionalmente del defunto. Ciò che occorre soprattutto è prestare conforto e ascolto ai parenti e clienti che sono rimasti in vita. E per oggi è tutto, si richiude la nostra finestra sul cortile. Ringrazio Vittoria Mussini in redazione, Pietro Lacorte in regia e tutti voi per l'ascolto. Vi invito a scrivere le vostre mail alla finestra sul cortile @radio24.it. Riccardo Chiaberge vi dà appuntamento a sabato prossimo, stessa ora.